Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, benvenute e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, il programma animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, l'evoluzione della cultura, del pensiero, degli stili e delle scelte di vita, ponendo al centro dell'attenzione gli animali non umani, nella loro relazione con il resto del vivente. È la puntata numero 635 e questa settimana parleremo di elementi vitali come la disponibilità di acqua e di cibo, di biodiversità, della non vita che gli animali conducono negli allevamenti. Come ogni settimana, il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni dedicherà una ricetta rigorosamente non violenta a una delle notizie della puntata. La cura della colonna sonora è di Gianluca Masala. It up on the game. A friend is not a means. You utilize to get somewhere. Somehow didn't notice. Friendship is an end. What do you know? It up on the Nei giorni scorsi si è celebrata in tutto il pianeta la Giornata Mondiale dell'Acqua, una risorsa essenziale alla vita e sottoposta a pressioni sempre più forti, dovute a un eccesso di sfruttamento, alla sua scarsità in aree sempre più vaste per effetto dei cambiamenti climatici e anche ai tentativi, in molti luoghi ben riusciti, di farne un business, anziché una risorsa da gestire nell'interesse collettivo, in modo democratico e con attenzione alle generazioni future. L'acqua è una risorsa simbolo, sia per chi si pone nell'ottica di una funzione di cura rispetto alla vita sulla Terra, sia per chi, all'opposto, pensa che anche questo bene essenziale alla vita debba essere gestito secondo criteri di mercato, reputati più efficienti, oltre che ovviamente più redditizi per chi riesce ad assicurarsene la gestione. Nell'ottica antispecista e quindi dell'interesse di tutte le forme animali viventi, ma dovremmo aggiungere anche quelle non animali, l'acqua non può essere altro che un bene comune, sottratto quindi al mercato e inserito in una logica che guardi al futuro della vita sul pianeta più che alle urgenze contingenti di questa o quella comunità umana. Attorno all'acqua, lo sappiamo, si gioca una partita politica ed economica cruciale e ne abbiamo avuto riprova nei giorni scorsi, quando la giornata mondiale è stata celebrata in modi molto diversi, spesso strizzando l'occhio al business, altre volte con sguardo sincero verso Gaia, il nostro piccolo e sofferente pianeta. Spesso il linguaggio si è fatto confuso e ambiguo, per esempio con l'uso del termine forum, tipico storicamente delle assemblee altermondialiste, quindi protese verso la diffusione dei beni comuni, e però ripreso in ambiti istituzionali più vicini agli interessi degli attori economici tradizionali. Evitando ogni ambiguità, prendiamo alcuni dati e considerazioni dalla dichiarazione finale del forum alternativo globale sull'acqua che si è tenuto a Dakar, in Senegal. L'acqua dolce, vi si legge, rappresenta solo il 2,8% delle risorse idriche ed è in diminuzione. Solo l'1% è in forma liquida e viene così utilizzata. Il 70% dall'agricoltura irrigua, in particolare l'agrobusiness, che rappresenta solo il 18% dei terreni coltivati nel mondo, a scapito di un'agricoltura contadina. Il 20% finisce alle industrie e solo il 10% ai bisogni domestici. Inoltre, la scarsità d'acqua colpisce quasi il 40% della popolazione mondiale. Quanto alle acque sotterranee, che costituiscono il 99% dell'acqua dolce liquida sulla Terra, si stanno rapidamente esaurendo, portando a una siccità diffusa. A partire da queste constatazioni, il Forum Alternativo Globale per l'Acqua chiede che l'accesso all'acqua sia dichiarato un diritto umano e che sia sottratto al mercato, perché l'acqua è la base della vita, come la terra e l'aria. Questi elementi, dice la dichiarazione, sono il nostro patrimonio comune. I loro cicli naturali vitali devono essere rispettati per la conservazione delle biodiversità e degli ecosistemi attraverso l'agroecologia. Ci sono insomma molti modi di parlare dell'acqua e c'è un evidente conflitto sui modi di gestione, protezione e accesso. È un confronto questo, a volte uno scontro, dal quale dipende buona parte del nostro futuro di animali e piante viventi sul pianeta Terra. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we want, and the future is certain. Give us time to work it out. Uno sguardo particolare sull'acqua e sul suo utilizzo arriva dal mondo associativo animalista, sempre più vicino all'ottica dell'ecologia integrale, una visione alla quale aggiunge un'attenzione reale e competente alla vita degli animali non umani. Una ricerca condotta dall'AV, Lega Antivivisezione, e Demetra, intitolata Il costo nascosto dei consumi di carne in Italia, dimostra quanto sia pesante l'impatto della zootecnia sulla qualità e quantità di acqua disponibile, specie con riguardo alle acque sotterranee, oggetto di una specifica attenzione da parte delle Nazioni Unite in occasione della giornata mondiale. Anche le acque sotterranee, dicono l'AV e Demetra, sono infatti soggette a inquinamento causato anche dal sistema agricolo e dagli allevamenti, in particolare dal dilavamento, tramite il quale l'acqua piovana fa penetrare profondamente fertilizzanti azotati e quanti sono per i mangimi, concimi organici e reflui zootecnici. C'è poi ovviamente l'impatto sui consumi di acqua per la produzione di carne. I dati su questo punto parlano chiaro. Risulta che dei 730 litri appositamente prelevati e consumati durante l'intero ciclo di produzione di un chilo di carne di bovino, 540 sono assorbiti dalla produzione, cioè dall'allevamento dell'animale fino alla macellazione, e 190 si utilizzano per la lavorazione, l'imballaggio, la distribuzione, il consumo. Il confronto con i legumi parla da solo. Per 100 grammi di proteine prodotte, in Italia la carne di bovino necessita di 290 litri d'acqua, mentre i piselli ne richiedono solo 6,6. Poiché, secondo la FAO, mantenendo le attuali abitudini alimentari, si passerà dal consumo globale di 268,7 milioni di tonnellate di carne nel 2020 ai 463 milioni di tonnellate del 2050, siamo alla vigilia di un disastro ecologico e sociale insopportabile. Solo un netto cambio di direzione delle scelte alimentari, dice l'AV, può fare la differenza a favore delle risorse idriche globali. Perciò chiediamo alla politica di essere subito lungimirante, di non smantellare sull'onda dell'emergenza bellica le strategie per la sostenibilità, ma di cogliere invece l'occasione per riformare radicalmente il sistema alimentare, rispondendo alle esigenze dell'emergenza climatica, attuando misure che riconoscano l'enorme impatto del consumo di carne anche sull'utilizzo e sull'inquinamento delle risorse idriche e prevedendo azioni a vantaggio di una transizione alimentare, con la progressiva rimozione dei finanziamenti pubblici alla zootecnia e con interventi a sostegno della produzione di proteine al 100% vegetali. Oh, Abbiamo parlato di acqua e di cibo, perciò ascoltiamo subito qual è la ricetta, dedicata per l'appunto all'acqua, pensata per noi da Gabriele Palloni, chef non violento, autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, un libro ricco di suggerimenti e di ricette che vi consigliamo caldamente. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Come l'acqua per il cioccolato, recitava il titolo di un film messicano di qualche anno fa. Ma l'acqua che vi racconto oggi è quella di un piatto diffuso in molte varianti nel sud Italia, ovvero l'acqua sale. Questa è la versione della basilicata debitamente virata in vegetale. Gli ingredienti per 4 persone per l'acqua sale sono 4 fette di pane raffermo, una cipolla, dell'olio extravergine di oliva, del peperoncino, 50 g di farina di ceci, 100 g di tofu, 80 g di ricotta di soia, 50 g di panna di soia, un pizzico di sale Kalanamak e della curcuma in polvere. Sbucciate e tagliate la cipolla a fette, mettetela in un tegame assieme ad un mezzo bicchiere di acqua. Quando il liquido sarà completamente evaporato, aggiungete un cucchiaio di olio extravergine e fatelo isolare per 5 minuti. Unite il peperoncino e 2 bicchieri di acqua o brodo vegetale. A parte amalgamate la farina di ceci con la panna di soia, unite il tofu tagliato a pezzetti e il sale Kalanamak. Fate rosolare questo impasto in una padella con dell'olio extravergine e cuocete per 5 minuti. Quando il brodo avrà raggiunto il bollore, versate mescolando il tofu saltato e spengete la fiamma. Mettete una fetta di pane su ogni piatto e versate il brodo caldo. Servite ogni fetta con una piccola quenelle di ricotta di soia. Parliamo spesso al Restiamo Animali di allevamenti e lo abbiamo fatto anche oggi, accennando al peso della zootecnia nello sperpero delle risorse idriche. Ma il nostro pensiero va quotidianamente, in modo angoscioso, agli animali che sono detenuti negli allevamenti, alle loro non vite, di prigionieri privati di tutto ciò che è importante e significativo per le loro esistenze. Gli allevamenti sono un grande, insopportabile scandalo del nostro tempo. Lo sono in modo strutturale, ma spesso c'è un di più. Alle costrizioni e alla condanna a morire giovani, a volte per gli animali si aggiunge il peso di condizioni quotidiane di esistenza più simili alla tortura che alla semplice prigionia. Le organizzazioni animaliste hanno prodotto negli ultimi anni una vasta documentazione in questo senso, con inchieste coperte dentro gli allevamenti. Uno scandalo nello scandalo. L'ultima inchiesta, in ordine di tempo, è stata condotta dall'Associazione Essere Animali in un allevamento di maiali destinati alla produzione di prosciutto DOP, nell'Odigiano, riscontrando, come dice Simone Montuschi, presidente di Essere Animali, maltrattamenti, crudeltà e problematiche igienico-sanitarie molto gravi. Il video che documenta l'inchiesta è sul sito essereanimali.org e vi invitiamo a visionarlo, per quanto possa essere dolorosa e penosa la constatazione di quanto documentato. Essere Animali e tutte le associazioni animaliste sono persuase che la conoscenza della reale condizione animale nella nostra società sia la premessa necessaria ai cambiamenti che dovranno venire. Nelle settimane scorse abbiamo parlato delle conseguenze sopportate anche dagli animali per effetto della guerra in Ucraina, con l'esodo di milioni di persone, spesso accompagnate dai loro congiunti non umani, ma anche con le sofferenze inflitte agli animali chiusi negli zoo, per non parlare dei selvatici, degli animali ospiti dei rifugi, degli equidi, dei cani e dei gatti liberi. La guerra continua e la protezione degli animali si fa sempre più difficile. Valentina Bagnato, responsabile delle relazioni internazionali dell'OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animali, nei giorni scorsi ha lanciato l'allarme, sostenendo che centinaia di migliaia, fra cani, gatti, ma anche cavalli e animali degli zoo, rischiano la vita. Ciò avviene perché, dopo una iniziale libertà di accesso nell'Unione, concessa in deroga rispetto alle normative ordinarie, sia dall'Italia, sia da paesi come Polonia, Ungheria, Romania, è arrivato uno stop all'espatrio per tutti gli animali provenienti da rifugi, allevamenti e anche ai randagi. Questo è avvenuto per timore di importare malattie come la rabbia o altre infezioni. Quindi ora l'unico modo per aiutare questi animali è farlo all'interno stesso dell'Ucraina, dove scarseggiano però cibo, materiali necessari per l'accudimento, acqua e spesso anche il personale. OIPA e altre organizzazioni hanno organizzato in queste settimane la spedizione in Ucraina di cibo, medicinali, antiparassitari e continuano a chiedere l'istituzione di corridoi ad hoc in modo da consentire l'uscita in sicurezza dal paese degli animali. Insomma, è tuttora essenziale il sostegno materiale, anche con l'invio di denaro, alle organizzazioni animaliste impegnate in Ucraina. La guerra in Ucraina sta avendo un impatto importante anche sul sistema agroindustriale, sia perché le consuete ingenti produzioni di cereali sono a forte rischio, sia perché i porti ucraini, dai quali partono i carichi destinati in Europa e non solo, sono al momento inaccessibili. Le conseguenze sugli approvvigionamenti e sui prezzi sono già evidenti. Fa il punto per noi Francesco Panier, giornalista e attivista specializzato in questioni ambientali, titolare per Restiamo Animali della rubrica Lessico dell'Antropocene. Disponibile, lemma su lemma, sul nostro sito restiamoanimali.it. Sono trascorse giusto 2 settimane da quando abbiamo parlato del rapporto fra guerra e crisi del sistema alimentare, raccontando come le grandi lobby agricole dell'industria del cibo paventassero una carestia in Europa in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina. Lo abbiamo detto anche la volta scorsa, ma lo ripetiamo. Non c'è alcun pericolo di rimanere senza cena, né nel continente né in Italia. È vero che alcuni prodotti agricoli scarseggiano, ma sono essenzialmente mais e olio di girasole, non proprio la base della nostra dieta. Anzi, si tratta di cosiddette commodities, prodotti standardizzati scambiati in tutto il mondo. Il primo per diventare mangime per animali rinchiusi negli allevamenti intensivi, il secondo per fare fritture, salse industriali e biscotti. Lo strepitio dei Coldiretti, Confagricoltura e di tutti i loro alleati nell'industria della carne e dei prodotti derivati è quindi più che altro un tentativo di ottenere 2 cose. Deroghe ai già risibili vincoli ambientali che dovrebbero rispettare nella produzione e denaro pubblico a sostegno di settori come quello della zootecnia, violenti e insostenibili in ogni loro aspetto. Il guaio è che la loro agenda regressiva sta passando. Da quando li abbiamo lasciati la scorsa puntata, hanno ottenuto l'impegno della Commissione europea di sospendere alcune regole della politica agricola. In particolare, se prima gli agricoltori ricevevano dei sussidi per lasciare alcuni terreni a riposo e farvi tornare uccelli e insetti che l'agricoltura intensiva sta facendo sparire dalle campagne, adesso saranno pagati anche se al posto di quelle siepi, di quei boschetti o di quei prati semineranno colture proteiche per gli allevatori industriali. Colture che, naturalmente, avranno bisogno di fertilizzanti chimici e pesticidi in quantità. E anche se questa misura ufficialmente sarà in vigore solo per il 2022, è già in corso un lavorio intenso per estenderla all'anno successivo. Le organizzazioni ambientaliste hanno tentato una reazione, ma è in questi momenti che si vede la sproporzione delle forze in campo. In 2 settimane di fuoco di fila, con la scusa di avere le mani libere per nutrire il popolo, i gruppi di interesse ci hanno riportato indietro di 10 anni nelle politiche ambientali, senza che noi potessimo toccare palla. Dobbiamo riconoscere che le crisi si trasformano spesso in occasioni di restaurazione, più che in momenti per promuovere un'evoluzione etico-morale e una innovazione sociale. Ma nonostante questo, non possiamo tirarci indietro. Con l'opposizione, con il rifiuto, dobbiamo non partecipare a queste bassezze. Finché qualcuna o qualcuno di noi sarà disposto a far valere il suo dissenso, non sarà detta l'ultima parola. With the birds of shade, it's a lonely wave goodbye to Mao and Pao, cause with the birds of shade, with the birds shade. Of shade, it's so lonely of you, and with the birds shade. Of shade, it's so lonely of you. Chiudiamo con una notizia che la dice lunga sullo stato di salute, ecologicamente parlando, del nostro pianeta. La regione Lombardia ha lanciato un bando chiamato Biodiversità e Clima da 3,5 milioni di euro con l'obiettivo di potenziare o ripristinare 16 habitat naturali lombardi, di cui 5 a rischio scomparsa, salvaguardando la sopravvivenza di 22 specie animali e vegetali autoctone. Il bando si propone di far collaborare enti pubblici e soggetti privati e si colloca nella concezione, nel linguaggio, negli strumenti individuati, in una logica economicista che oggi pare necessaria e scontata. È così che operano normalmente le amministrazioni pubbliche, quanto da un altro punto di vista sconcertante e paradossale, se pensiamo che il disastro cui si tenta di rimediare, la compromissione degli ecosistemi naturali, nasce proprio da logiche economiciste e produttiviste. Niente di male, si dirà, qualcosa bisogna pur fare. D'accordo. Ma anche osservando l'ordine delle cose da questo punto di vista, si capisce che la necessità di agire con urgenza e con profondità richiede un vero, radicale cambio di paradigma. Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Camilla Lattanzi, Anna Granata, Valentina Reggiori, Francesco Pagnier, Gianni Ferrarotti, Zenone Sovilla, Gabriele Pallone, Gianluca Masala e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.